Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave. Stasera abbiamo una serata straordinaria, come abbiamo parlato, abbiamo fatto un'anteprima qualche minuto fa con Roberto. Stasera abbiamo il professor Lui, giusto la pronuncia, abbiamo Miss Mary, ok? Sì. E Julian Paulson, ok? From Ciao. Tasmania? Yeah. Sì, grazie. E Tweebirds, quelli ci sono sempre. Ah, buonasera a soliti. Tutti. Con Grappa. Buonasera con Grappa. Sì, già trovato, Ma però sottolineiamo su richiesta stavolta. Eccola là. Cheers. Anche il professor ha provato, Anche Giulia ha provato subito, Cheers. Ok, una serata straordinaria stasera. Perché una serata straordinaria? Perché il professor from New York City, direttamente da New York, viene a fare quattro date delle nostre parti assieme ai Birds. Come mai, adesso farai la traduzione, come mai siete riusciti a portare un musicista di tale calibro qui in Italia? Forse perché gli abbiamo fatto pena. Ah, gli avete fatto pena. No, sto scherzando ovviamente. Lui, Maurizio Eschewai, you come in Italy for playing gigs and record a CD with the Beards. With the Beards, good friends, good music, good exchange for people. I was here last month and playing with Guy Davis, another blues artist, and we all got together and made this plan, and now we're here doing it. So it's a good musical idea. Ma è stato molto gentile, ha detto siamo dei buoni amici, buoni musicisti, e ci siamo incontrati un mese fa mentre lui supportava Guy Davis, un altro splendido bluesman americano, e abbiamo definito il progetto. Cioè, eravamo già d'accordo da diversi mesi comunque, ecco. Chiaramente, e dobbiamo sottolineare una cosa, che il professor comincia dal jazz, parte dal jazz, e poi è cominciato a sviluppare un discorso musicale che si è adagiato a rhythm and blues, e poi è diventato uno dei session più richiesti dal punto di vista come turnista più richiesti degli Stati Uniti. You start from the jazz, Aaron, and then turn to rhythm and blues, and well, jazz was always, you know, American music, so we started with jazz, but the blues is where it started, gospel music and jazz from New Orleans. And so we've been listening to all the roots of music of America, blues, jazz, country western music, yeah. So all the roots of the American music. Quindi diciamo che in realtà sì, è sempre stato interessato a tutta la musica della tradizione americana, dal country al blues e al jazz pure. E l'incontro fondamentale con Rick Danko e Lemon Helm the band, come è stato, come si è sviluppato, come è stata la scintilla che ha portato a questo incontro importante? Maybe the question, long time question, how you met the Rick Danko, the band, I was working in a recording studio making a record with James Taylor's brother Livingston Taylor, with a very fine guitarist, Artie Trom, and Garth Hudson of the band called Artie Trom and asked him who was the guy that could help out the most. And fortunately for me, Artie Trom recommended my skills and talents to work in the studio, and I started working with the band then, maybe 1985, and then stayed right on until Rick finally passed away. So it really started from Garth Hudson and Artie Trom recommending me for the job. Diciamo che è iniziato con lavoro in studio, che stava registrando il fratello di James Taylor, e in quell'occasione c'era la chitarra Artie Trom, che ha fatto che ha appunto proposto Aaron come di occuparsi di questa registrazione di questo disco. E in studio c'era anche Garth Hudson, membro storico della band. Da là, insomma, passaggio è stato facile, insomma. È nata l'amicizia e poi la produzione di bei tre dischi fondamentali, di cui Jericho, un disco splendido, wonderful. Oh, thank you so much. Wonderful. Grazie, thank you. So that was the first CD that I was with the band from 85 to 92, and we finally got to the Jericho CD. So that was good. And Artie Trom was a great acoustic guitar player. just one of the best. Happy and Artie Trump, yes. Okay, yes, okay. Yes. Certo, certo. Poi Jericho nella copertina del cover per Jericho ricorda The Basement Tape di Dylan, praticamente la stessa The Home, The Big Pink, esatto. Big Pink, yeah. Well, the Jericho CD we did do at Levon Helm Studio wasn't quite a home studio like Big Pink, but nice equipment, and it was a good time, and we had worked on the songs for a few years to get it there. Ok, allora adesso apriamo la finestra come sempre, come la nostra tradizione, e prendiamo un pezzo dall'album, dai dischi che ha scelto il professor. Il primo pezzo da quel disco che ti ricordi? Ti ricordi la scaletta? Century of the Blues. Mm. Facciamo spiegare un momento dal professor. Can you tell something about Century of the Blues? Century of the Blues, we wanted to make a blues CD in honor of all the great blues artists that have influenced all of us. And the song Century of the Blues starts off Buddy Bolden, who was a trumpet player from New Orleans, but played before records were ever made. He was Louis Armstrong's teacher. So the Century of the Blues lyrics start with Buddy Bolden and go all the way up the Mississippi and all the way up north to Chicago, and the song itself covers all the different great blues artists and the locations of the blues, and also all the immigrants coming to America to come together and make the blues music. So the whole CD is based on different styles of blues, but the song Century of the Blues has it all in one. It's a journey in the blues history. Early in the blues history, and yeah, early in the blues history. Diciamo che la canzone è un grande viaggio che condensa tutta la storia del blues dagli inizi fino a passando anche per Louis Armstrong, e il trombettista Bolden lo rappresenta Buddy bene Bolden, all'inizio, yes, del brano, e appunto viaggia attraverso le varie situazioni del blues e la storia del blues, insomma appunto condensa 100 anni di blues in una canzone. Louis Armstrong was the one that really started everything, very much so. Louis Armstrong è colui che ha veramente iniziato tutto quanto. Ok, adesso sentiamo e ascoltiamo il primo pezzo del Professor Yu. Rock Wave, l'onda del rock. When you see a spark blown out across the Delta night, I watch it from my window bathed in old world sunlight. I catch it on my tongue. It burns and says, how do you do? Well, I walked off with the sentry of the blues. I see you wait for the whistle blow, for the man to say it's time for you to go. But that man gets smaller as you roll away. Not through all the love and loss and all of the decay. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, siete ascoltando Rock Wave, è tutto assolutamente in diretta. Ringraziamo il nostro staff, Michele Tosò, il mitico Michele in regia, con la grappa compresa. Poi c'è Roberto Baldi, che ha curato le telecamere, Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che cura stasera la fotografia in mancanza di Agostino, e poi c'è la redazione femminile, le tre ragazze che ci seguono sempre, che probabilmente la danno anche a vedere, due che abitano a Dolo verranno a vedere il professor Lui e la sua band, chiaramente, le prossime, poi citeremo le date del professor Lui. Sono la Nicoletta, la Patrizia, hai messo la locandina del concerto, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, ecco. Adesso cominciamo a parlare allora di questo pezzo che proviene dal blues. Il blues è il professor lui ha il blues nel sangue, è vero, Emanuele? The DNA. Blues is in your blood or yeah, what? Blues is in everybody's blood. Everybody has the blues at some time. And the Century of the Blues was written by somebody from Ireland, Kevin Daugherty, who helped us write it. So we try to get everybody internationally involved here, you know. So now we play it here, we from playing in Ireland, playing in Russia, playing in America. So the blues is something everybody feels, yes. A proposito del blues e a proposito dell'ultimo brano, lui dice che il blues è in tutti noi. E infatti questo brano è stato scritto in collaborazione con un artista irlandese, ma hanno suonato il blues in Russia e lo stanno suonando qua in Italia. Quindi è proprio un veicolo che trasmette l'uguaglianza tra i popoli, uno strumento che abbraccia tutta l'umanità, insomma. Certamente. La canzone è stata scritta da Kevin Daugherty. L'artista irlandese è Kevin Daugherty. Ok, a proposito del blues e a proposito della fisarmonica, professore, lui è un grosso... uno dei più grandi fisarmonicisti americani, è molto famoso come fisarmonica, e quando è venuto in Italia cosa ha fatto quando è arrivato da New York? È subito guardato un negozio di fisarmonica, mi diceva. Era un produttore, un artigiano, esattamente. You are one of the best accordion player in the United States. Well, I don't know if we want to go that far. Anyway, very good accordionist in the United States, but I do enjoy the instrument so much, and it's such a great world instrument, and it's great to come to Italy. Today we went to see a great accordion maker. Infatti. Fantastic, yeah, beautiful. Ha detto che è stata una splendida esperienza andare a vedere questo artigiano. Galliano diciamo. Si chiama, salutiamo. Quindi, that's great. artigiano di fisarmoniche. C'è anche tra l'altro, c'è anche offerto una bella bottiglia di vino. Non di birra, di grappa, no. di vino. By the way, she offered us wine today. Yeah, oh yeah, wine today, yeah. Fra Cabernet Sauvignon. E Miss Mary canta e suona, canta e suona il pianoforte praticamente. E percussioni. E percussioni. Com'è nata la carriera di Miss Mary? And you, Mary, how you start your career? As a singer, I started pianista. And when I was young, I played the piano, and then I started to sing in bands when I was young. And as time went on, then I met Louis, and we had a lot of different groups together. We did a lot of music, traveled all over, and we're still doing it. So, diciamo che ha iniziato suonando il piano, poi ha iniziato a cantare. Ha avuto una grande esperienza musicale con diversi gruppi e alla fine ha incontrato lui. Professor Louis. The great singer. Great singer. Yeah, yeah. Yeah. Benissimo. Good writer. Il terzo componente viene from Tasmania, no, Australia. Non è il terzo componente. Cioè il terzo ospite. Terzo. Il terzo ospite. Il terzo ospite. Tasmania. Julian Paulson. Cosa suona? Che suona? La chitarra suona praticamente. Come nasce musicalmente come musicista? Julian, how you start your career? Tasmania is a long way from Treviso and a long way from everywhere. So as a kid I put an antennas up in the trees outside my house and try and tune into radio from somewhere because we really didn't have any radio or TV in Tasmania and records from my uncles, you know, New Orleans music, obscure music that was all on French imports, and then of course a lot of Australian bands from the 60s, like the older brothers of AC/DC, the Easy Beats, and the Loved Ones, and then of course Australia has its own particular kind of rock and roll music, punk bands like The Saints and Nick Cave and that kind of music I've loved and followed for a long time and still am. Okay. Diciamo che Giulia viene da un posto molto distante da praticamente per qualsiasi altro posto nel mondo, insomma, viene dalla Tasmania. E ha iniziato ad ascoltare musica dai dischi di suo zio e cercando di piazzare l'antenna su un albero di casa per beccare qualche stazione radio. E poi è sempre stato vicino ai gruppi italiani, dal fratello maggiore degli AC/DC, con gli Easy Beats, arrivando poi a Nick Cave, a gruppi della scena punk. Lui è un po' modesto, certe cose non le ha dette, comunque anche lui ha fatto parte della scena, diciamo, importante, insomma, ecco. Però dice che ha iniziato così con questo entusiasmo a interessarsi di musica e ancora continua, insomma, ecco. E questo è il come mai si è riunito assieme a questi? No, è stata una casualità. No, Maurizio, fermate perché sennò... No, ok, è stata una casualità. Allora, avevamo questi progetti internazionali e abbiamo, noi The Beers, creato questo progetto, siamo patrocinato la provincia, certo, di Venezia, del comune di Dolo, che praticamente vede nella Riviera un crocevia di artisti internazionali, perché con Giulia abbiamo appena finito di registrare la colonna sonora per un film western che sarà ambientato in Australia, chiamato Mosquito. Perfetto. E con il professor lui e appunto abbiamo e Mary abbiamo questo progetto di registrare un disco di americana, insomma. Certo, certo, chiarissimo. Ok, abbiamo chiarito. Adesso facciamo sentire il secondo pezzo dal primo album, dall'album che abbiamo scelto dal professor lui. Ti ricordi il titolo? Il secondo pezzo era... The second song from the Century of the Blues CD, Clouds in My Heart. I think it's number three, which is like a Chicago blues style playing. It's our own music to an old Muddy Waters song. Okay. Woo. È stato chiarissimo. Yeah. Okay. We'll Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo del professor Lui. Abbiamo fatto questa domanda a microfono spento, adesso la rifacciamo a microfono aperto. Che rapporto c'era con Muddy Waters? What about the Muddy Waters? Well, Muddy Waters, you know, he started off as a thank you, a little espresso here. Muddy Waters started off as a fantastic acoustic guitar player. Before he moved to Chicago, down in Mississippi, he made records just acoustic solo, and then moved to Chicago and became very famous in Chicago as an electric guitar player and the electric movement of Chicago of the 40s and 50s and 60s, and made a lot of records, wrote a lot of great songs, and had great bands. And I did meet him once years ago when I was very young at somebody's house. He was playing, and I met him once, and very generous person and great influence on people. Muddy Waters inizia come un chitarrista acustico e diventa molto famoso poi con l'avvento dell'elettricità, certo, con Chicago Blues, passando quindi agli anni 40, agli anni 50, poi arriva negli anni 60, ha grandissime band e continua a comporre e eseguire splendide canzoni. Lui l'ha incontrato quando era molto molto giovane. E dice di Muddy Waters che era una persona molto generosa e molto carismatica, una grande influenza con le, cioè, mettiamo un po' di soggezione, insomma. Sì, c'è un maestro praticamente. Sì, sì, sì, sì, esattamente. Bene, è stato un incontro importante, però decisamente importante. Ha segnato una svolta al professor Lui l'incontro con Muddy. This after the meeting with Muddy Waters. happened something. Well, what it is Muddy Waters, at a time in America, there was a one time when he fell out. He was not popular at all. He was not a popular artist at all because it was right between rock and roll and blues. And the Rolling Stones brought Muddy Waters back. Yeah, yeah. Yep. So I met him right when things were not going well, and it was in a very small bar when I met him. So, and then from there he started moving on very, very much. But it influenced me by realizing that, you know, you hear about people and they're famous, but yet they could have their ups and downs. And it was one of the first artists I had met that, you know, was famous and then not famous. So. Diciamo che l'ha incontrato in un periodo un po' particolare, Muddy Waters, perché era proprio il periodo della scarsa popolarità di Muddy Waters, ma in realtà anche la scarsa popolarità del blues a un certo punto, a metà degli anni 60, Alpha of the 60s, the low popularity of Muddy Waters. Yeah, the low, early 60s, yeah. Very low, very low. E dopo, con l'avvento del con l'abbraccio bianco, con l'avvento del blues bianco, c'è stato il ritorno, no? Ad esempio, Muddy Waters registrò con i Rolling Stones, certo. Ok, lo sanno tutti questo, insomma, lui lo conobbe proprio nel periodo di transizione tra la scarsa popolarità e il ritorno. Il grande ritorno. Riguardo all'influenza, insomma, è indubbia, però teniamo conto che sempre si parla di persone molto famose, quindi certo. È molto influenti, ecco. Decisamente. Ok. 22:41, tutto in diretta, tutto live, diretta rockway.altervista.org. Ci potete sentire e vedere il professor Louis, Miss Mary e Julian Poulsen che suoneranno adesso. Siamo pronti? Guitar? Ok. Mm-hmm. A suonare. Cosa suoniamo? Cosa avete deciso di suonare? What are you going to play? Well, do you want to play one all together? Yeah. Yeah. Yeah. We play one all together? Sure. All right, since we're talking about the blues, We'll do a tune called Baby Loves to Boogie, in the key of A-E. Key V, we'll do. We'll pick Key. Un bel blues in me. Yeah, yeah. Baby Loves to Boogie. Baby Loves to Boogie. Baby loves to boogie, and she loves to boogie all night long. Baby loves the boogie, and she loves the boogie all night long. The boogie all night long. Well, I love my baby when her boogie shoes is on. She says she likes my style. I tell her I'm a man. She says she likes my style. I tell her I'm a man. Loves the boogie and she loves the boogie all night long. Well, baby loves the boogie and she loves the boogie all night long. All night long. Well, I love my baby when the boogie shoes is on. We ain't got no dough, we got no place to go. We ain't got no dough, we got no place to go. We got no place to go. Well, I love my baby when she starts to boogie down real slow. Baby loves to boogie and she loves to boogie all night long. Oh yeah, all night long. Yeah, baby loves to boogie and she loves to boogie all night long. Oh yeah, all night long. Well, I love my baby when the boogie shoes is on. Yeah, baby, how about some piano? Piano, yeah. Woo. All right! Oh, feet. I love you, baby, but I need my sleep. You rock my roll, you roll my rock, but if you don't start the boogie, you're gonna find yourself in a hole. All night long. All night, all night long. But I love my baby when the boogie shoes is on. Baby loves to boogie and she loves to boogie all night long. Baby loves to boogie and she loves to boogie all night long. Oh no, all night long. Well, I love my baby when her boogie shoes is on. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Fantastic, fantastic, bravi. Grazie. Fantastic, fantastic. Si respira proprio l'area del blues. Ecco, quando un blues suonano musicisti americani, sono bravissimi anche gli italiani, ma quando suonano gli musicisti americani, c'è niente da fare. C'è un altro, cosa dici? Ma sta cosa non riguarda The Birds? No, chiaramente escluse The Birds. Okay. Assolutamente escluse The Birds. Ah, cioè, vabbè, a parte gli scherzi, forse da noi il blues ha preso un po' una piega sbagliata, nel senso che il blues deve essere espressione. Blues must be expression. You have to, sorry. Ci vuole la tecnica, ma non deve essere un esercizio, non di solo tecnica, quello, esatto. Nella musica in generale, ma in particolare nel blues. Ci vuole il sentimento, il feeling. Sì, sì, sì, sì. Professor Louis, Miss Mary. No, because the question was, my baby, was a question for us or for... No, beh, puoi farla anche lui, sì, chiaramente. Say, when Americans play the blues, is completely different from... when Italians play the blues. Yeah, sure. Everybody's going to play it a little different. That's the thing. It's the thing about the music. It's like folk music. Everybody interprets it, has their own folk music way of doing it. So everybody can interpret it a different way. Mm-hmm. Yeah. Bellissima risposta. Ha detto che si tratta di musica folk e ognuno la interpreta secondo la propria propensione, insomma, secondo il proprio. Questo è importante. Cioè, se una propria propensione, però la propensione, cioè c'è molto feeling, molto trasporto, feeling, ok? Feeling. Mm. Yes, the feeling is the main thing. The main thing, yes. The feeling is the main part of the music. It is about feeling. Yes, it is. Ok. 22:49, assolutamente tutto in diretta, assolutamente con Professor Louis, Miss Mary e Julia Poulsen, più i Birds che suonano anche loro. Tastiera, tu canti solamente? No, mi bevo. Ah, tu bevi. I drink. Ce n'è ancora. No, vai, ma con moderazione. Hai bambini a casa, con moderazione. Poi ci sono gli ovetti, vero? C'è gli ovetti, esattamente. Anche questo con moderazione. Anche con moderazione, assolutamente. Adesso passiamo al capitolo di Jericho. L'album, qualche aneddoto sulla registrazione di The Jericho, che il professor lui sa sicuramente. E che era. Appunto, e che c'era, come si dice in Veneto. C'era. About Jericho, Aaron. About Jericho. Mm, yeah. Jericho was a CD that took us years to put together, to make. And it's with the great group, the band. We worked very hard on that CD. Very hard on that CD. And the songs were chosen very carefully. And a few of the songs were written right for that CD on the spot. And the Caves of Jericho, the main theme song of the CD, was written by Richard Bell, a great piano player, and also featured Vassar Clemens on violin, plus the band. The Caves of the song The Caves of Jericho. Mm-hmm. È stato un album che ha richiesto molto tempo prima di essere portato in studio. Le canzoni sono state scelte molto accuratamente. L'album from Coming Back of the Band. Well, that was one of the things that was a hard reason to make the CD. It was the first CD that the band had released in 17 years. So there was a lot of people looking at what they were going to do and what it was going to sound like. So there was extra added tension. E come Emanuele ha ricordato, è stato il CD del ritorno di The Band. Mm-hmm. E quindi questo è il motivo per cui insomma è stato così ponderato il disco. E parlando della canzone Cave of Jericho. Yeah, and I was very fortunate to be sort of close to being in charge. Mm. The artist is Richard Bell. Si vede artisti come Richard Bell e la violinista. Yeah. The violinist. Violinist was Vassar Clemens. Ah, Vassar Clemens. Very good friend of mine. Was. Jericho. And the band. And the band. And Jericho the band. È stato l'album della rinascita, assolutamente della rinascita, sia dal punto di vista del disco, sia dal punto di vista delle classifiche, sia dal punto di vista della qualità, secondo me, della band. Se puoi chiedergli questo, no? Puoi farlo. Is the rebirth of the rebirth of the band from the quality point of view and from the rebirth itself. Yes, because again, agree? The band was another group that fell out of popularity in the 80s. Nobody cared very much for the band to make new music, and so in the 90s, all of a sudden, a new interest happened. È stato che non avevo detto prima, è stato il primo album registrato dopo 17 anni. The Band avevano perso di molta popolarità, quindi era una sfida molto importante. Effettivamente ha avuto un grande successo sia negli Stati Uniti sia in Inghilterra e soprattutto in Italia. In Italia è stato molto amato, molto comprato dal sottoscritto, anche tra parentesi. Un album bellissimo. No, voglio tradurlo. Sì, vabbè, certo. Mi chiedo scusa se parlo in dialetto ogni tanto. No, va bene. Maurizio said that it's been a big success in America, in the United States, I mean, in UK and yes. Italy too. Yes, yes. Mm-hmm. Oh yeah, the band is world renowned. People love the music, and it's honest music that will last forever. That's why there was a lot of care taken in making the Jericho CD. Mm-hmm. A lot of care. E se vuoi ricordo io personalmente recensioni entusiastiche di questo disco nei giornali specializzati, ricordo tanti anni fa, proprio la rinascita completa del gruppo, recensioni bellissime, tutti grandissimi, un grande riscontro in Italia, veri. Talking about a specific feedback of Italians for the record. Uh-huh. And maybe something that you appreciate to learn if yeah. You, well, when I was here last, a lot of people came up and spoke to me about Jericho. Mm. A lot of people in Italy spoke to me about lots of reviews. Yeah, lots of reviews. Always good. Very good. So is that one of the situations? Nice, you work a lot, but you see the results. Yeah, very nice. Excellent. Yeah, because the reviews in the States were okay, but I think they were better out of the States. The reviews, yeah. Ha detto che le recensioni sono state buone negli States, ma forse fuori dagli States sono state anche migliori. Esattamente, soprattutto in Europa e soprattutto in Italia. E come mai? Perché c'era il bisogno del ritorno della band, c'era il bisogno del ritorno di questi grandi musicisti. E l'aspettativa era grande. Giornali come Buscadero, come Mucchio Selvaggio, come Rockerilla, all'epoca hanno fatto degli articoloni. A little bit of brainstorming. A little bit of brainstorming, yeah, because, the question is why this all this feeling of this emotion concerning Jericho in Europe, in Italy, and Maurizio said it was everyone was waiting for it. Yes, Yes, yes, everybody was waiting for it. So, mm-hmm. And it was nice that the band did it, because for many years they did not want to record. So it was good they finally decided to record and start that great sound up again. Ok, sentiamo un pezzo allora da Jericho. Cosa abbiamo scelto nella scaletta, ti ricordi? Ok, ok, perfetto. Games of Jericho, great. Ok. Yeah. Rock Wave, l'onda del rock. Start 'em up again. Down. their future might have been. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Abbiamo sentito un pezzo da Jericho, di cui abbiamo parlato benissimo, un album strepitoso. Facciamo un ricordo. Il professor Lui adesso ci fa un ricordo di Rick Danko. Che ha suonato gli ultimi, proprio un giorno, qualche giorno prima della morte di Rick Danko. It's a particular question. Yeah. What about Rick, the later days? Well, Rick Danko turned out to be, because we traveled around the world with the band for many, many years. And it turned out in the end that Rick became my best friend, one of my best friends, which is nice to have a working relationship, you know, with somebody playing music and also being very, very good friends. So it became a very special time for us in the last couple of years of his life. He hung out with us at the house. Yeah, he was always over at the house, and we toured many times together, just duo, double, you know, when other people were doing things. And he was the soul of the band after Rich Emanuel passed. Rick was the final soul of the band, and when he passed, that was it. So that's that was my relationship with Rick. Sono stati in giro per il mondo anche semplicemente come duo, e Rick Danko è diventato il migliore amico di del professore, e io aggiungo anche che, che il nome, che appunto il soprannome professor Lui l'ha dato Rick Danko, insomma, è importante. Cioè, aggiungo solamente che sono venuti nel 94 in Italia con Rick Danko è professor Lui. Nel 94 sono stati in Italia. Si ricorda? Do you remember 94 in Italy? 94 Italy. 94 in Italy. Yeah, Rick came here. Yeah, yes, I do. Yes, because he also went to England. We played together in England also. Show there, and Rick is the guy who, you know, the band. This is a good one. The band. Everybody used their middle names. Yeah. You know, it was Mark Levon Helm. Levon's name is Mark. Eric. Garth Hudson. So Rick, my middle name is Lewis. So Rick started calling me Professor Lewis or Professor Louis, and that's how I got my name. That's how he got the name from Rick Danko. Gave him the name Professor Louis. Ah, okay. Yeah. I told this, but I don't explain. Yeah. That's why that happened. Tutti nella band usavano il secondo nome per chiamarsi, ad esempio Mark Levon Helm o Eric Garth Hudson. Right. Il secondo nome di Aaron Hurwitz è Lewis. Right. E quindi lui. È lui, esatto. Ma tornando a prima, insomma, che era assieme a Richard Manuel la vera anima di The Band, della formazione, e un amico fraterno, insomma, quindi penso non ci sia aggiungere altro. No, insomma, certamente no. Allora facciamo così, adesso sentiamo un altro pezzo da Jericho e poi Singer suoniamo. No, basta, è finito? Ok, allora suoniamo. Okay. Well, there's a couple different ones. There is one on the Jericho CD. Now that we're talking about it, called Blind Willie McTell, which is about a great acoustic blues man by the name of Blind Willie McTell from Atlanta, Georgia. It's a little long, but it's okay if it's long. Right? No, he's it's okay. Okay. It's okay. It's a little long, so maybe we should do that one. It's the key of D minor, and when you feel comfortable, join in. See the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way to New Orleans, to Jerusalem. Now I've traveled through East Texas, where many a martyr fell. And I know one thing, nobody can sing them blues like Blind Willie McTell. I heard the singing as they were taking down the tents, the barren trees, the stars above were his only audience. Now those charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, and I know one thing, nobody can sing them blues like blind Willie Mitchell. La la la la la la la. Hear the cracking of the whips, smell those sweet magnolia blossoms blooming. I could hear the ghosts of the slavery ships. I can hear the tribes moaning. I could hear the undertaker's bell. And I know one thing, nobody can sing them blues like blind Willie Mitchell. And there's a woman standing by the river. She is with a fine, young, handsome man. And he's all dressed just like a squire. He got bootleg whiskey in his hand. And there's a chain gang out on the highway. Oh, I can hear them rebels yell. Yeah. I know one thing, nobody can sing them blues like blind Willie Mitchell. His. The power and greed, the corruptible seed, seems to be all that there is. Now I'm gazing out my window of this here with the beards on the radio hotel. And I know one thing, nobody can sing them blues like Brian Willie Mitchell. No, I know one thing, nobody can sing them blues like Brian Willie Mitchell. Oh, Sono le 23 e 12 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Lufiegra? Traduco dal Veneto. Vuoi un bicchiere di grappa? Dopo. Ma che dopo potrebbe essere tardi. È stata una grande emozione, un pezzo bellissimo, un grande trasporto, complimenti, veramente un pezzo meraviglioso. Ricordiamo che è un pezzo di Bob Dylan, esattamente, escluso da un album, mi sembra, Infidels, mi sembra, sì, mi pare di sì, che poi è stato incluso nella Bootleg Series, pensa un po', cioè, pensa un po' cosa aveva scartato. Pensa un po' quante ne ha. Ricordo che recentemente ho sentito Ezio Guatamacchi, quello di Gem, che mi ha detto che è stato 2-3 mesi fa in America e ha visto un concerto di Bob Dylan, 70 anni a Bob Dylan, è venuto anche qua recentemente, esattamente, si è presentato vestito completamente di nero, i suoi musicisti sono arrivati 10 minuti prima, lui di nero si è presentato, è salito sul palco, ha dato uno sguardo ai musicisti e hanno cominciato a suonare, senza sapere, come sempre, niente di cosa volesse suonare. Dicono che sia una scaletta. Facciamo una domanda al professor su questo. Ok. Puoi tradurre. Allora, la domanda che ti stavo. Maurizio asked, do you know if Bob Dylan have the set list? Dai, il microfono, mettiti. Does he have the set list for musicians? I would say no. Ok, I would say no. Cioè, alla domanda, una scaletta Bob Dylan? No, no, esatto. I think there's probably a certain amount of songs they play during a tour, but I don't think there's a set, total set list. No, nessuna scaletta. Ok, no. Nessuna scaletta. Nessuna scaletta. Maurizio, curiously. Yeah, yeah, sure. We don't use set lists too often either. No, not too much. No. Versione però che il professore, Miss Mary e Giulia hanno dato di questo pezzo è stata meravigliosa in ogni caso. Dobbiamo ribadirlo al professore. Siamo tutti emozionati. Ribadisci al professore questo. There's a lot of emotion going on here. That's the what it's about. Yeah. Bellissimo. Right. Bellissimo. Wonderful. Yeah. Thanks to you. Oh, thanks to you having us here, yes, in your country. Yes. Otherwise we wouldn't be here. Yeah. Ok, 23 e 14, quindi abbiamo ancora tempo, molto tempo ancora per far sentire la musica del professore e far sentire la musica del professore. Adesso in scaletta c'è un suo disco, mi pare ancora, non ricordo quale però. Eccolo qua. Whispering Pines. Il pezzo che abbiamo scelto da questo disco, che cosa ti ricordi? On the Whispering Pines CD there's two songs, if we could play them, that would be great. One, since we brought up Bob Dylan, Miss Marie sings a great Bob Dylan song on the Whispering Pines, Serve Somebody. Right. That's on there. And there's one song on Whispering Pines called Melody of Peace. Ok, diciamo che ci sono due canzoni dentro il CD di Whispering Pines. Che vuole fare sentire una è Serve Somebody, Bob Dylan, tratta da Slow Train, sì, comic, esatto, che canta meravigliosamente Miss Mary. Benissimo. E un'altra è Melody of Peace. Melody of Peace, I have now played, performed that song with symphonies and choruses all around the world. Melody of Peace. It's an important thing, an important idea to keep spreading because times are not so good. And we're going to try to do it here in Italy. I've done it in Russia. We've done it in Prague. We've done it in America, Canada. The version on the Whispering Pines CD was recorded in Prague with the Czech Symphony. È una canzone che e ritorniamo al concetto di prima, come la musica, il blues abbraccia tutta l'umanità. È una canzone che hanno registrato in diverse parti del mondo. Prego un po' di serietà. Gli ascoltatori hanno visto, però. Tu, okay. Michele, non la trovi più dopo, assolutamente. Dai, una, per favore. È una canzone che hanno registrato in diverse parti del mondo, che registreranno qua con noi in Italia. Certo. E è una canzone che parla appunto di pace. Cosa da quale l'umanità ha ancora molto bisogno, esatto. E l'idea di materialmente registrare in diverse parti del mondo è proprio un'espressione di un desiderio di pace, proprio nel modo più universale possibile, insomma. Certamente. Sentiamo allora il primo pezzo da questo album del professore. If you find me in a gloom or catch me in a dream inside my lonely room, there is no in between, whispering pines rising of the tide. If only one star shines, that's just enough to get. Ok, diretta rockway.altervista.org, ci potete vedere e sentire con questo concerto straordinario stasera. Lo facciamo dal vivo il pezzo dedicato alla pace, cosa dice allora? Beh, sicuramente sì. Siete pronti? We're gonna do the... Want to play? You want to play? Serve somebody first, then no. Melody Piece. No, no, Melody Piece. Let's do Melody Piece. Okay, Melody Piece. Piano. Mm. Yeah. Marie, you're gonna sing with me, right? Sure. Okay. Okay. Oh, Professor Luis mette al piano adesso. Okay. Tutto dal vivo, chiaramente. Tutto dal vivo. Tutto dal vivo. Grappa compresa. Sta finendo, purtroppo. I can bring a pace for everybody. You want to see chords? B flat. B flat. Okay. Okay. B flat, and it goes the key of C. It's a little bit orchestrated. All right, Melody Piece. Played in tune. It's time to settle back, feet in the air. Time for love and peace we all can share. Silver bells ringing in the mist. See the snow cover everything in white. Hear a distant choir harmonize, telling stories that the world can be alright. Hear the melody of peace ring through the mountains. A melody of peace cuts a line through the sand. It runs deeper, deeper than the ocean. Hear the melody of peace answer to our prayers. For the faithful hearts, the angels keep singing. Silent night to people everywhere. It's the time of year to be together. Every child, woman and man, we must believe good things can happen. When we open up our hearts, feel the magic in the air. Hear the melody of peace ring through the mountains. A melody of peace cuts a line through the sand. It runs deeper, deeper than the ocean. Hear the melody of peace answer to our prayers. Hear the melody of peace ring through the mountains. A melody of peace cuts a line through the sand. It runs deeper, deeper than the ocean. Hear the melody of peace answer to our prayers. Hear the melody of peace answer to our prayers. Answer to our prayers. Grazie, grazie. Bellissimo, bellissimo, incredibile, un'atmosfera, un pathos spaventoso. Meravigliosa la voce di Miss Mary e meraviglioso il pianoforte di Professor Louis. Incredibile, un pezzo meraviglioso. Danno sensazioni. Il suo pianoforte, amore. Sì, beh, il pianoforte è il suo, Emanuele. Però l'ha suonato il professor. Ok, una cosa... dà molta sensazione, e fare un concerto dal vivo, live qui in radio a Rock Wake, un grandissimo onore per noi e anche un grandissimo onore per voi ospitare il professore in questa mini tour. Ancora mini tour, è venuto a registrare un disco. Beh, suona con voi in ogni caso. Sì, è venuto a registrare un disco, però suona con voi. Facciamo qualche data. Esattamente. Anzi, ricordiamo le date. Ricordiamo le date. Stardust di Albignasego il venerdì 23 con, dalle ore 22. Dalle ore 22. Esattamente. Poi, che è anche un ottimo ristorante, quindi chi volesse venire a cenare può farlo. Può conciliare l'utile, la buona cucina con la buona musica. Perfetto. Poi domenica 25 giochiamo in casa, perché siamo molto vicini al comune di Vigo Novo, suoniamo in Villa Zanon alle ore 21. Il lunedì 26 speriamo di non cadere in acqua, perché suoniamo sulla zattera del Portello River Festival. Perfetto, sempre questo dalle ore 22. Martedì suoniamo, è una situazione particolare. 3 agosto, che... però. No, un'altra situazione, lo diciamo così, che non è, una cosa non per troppe persone, perché suoniamo in una barca da 50 persone che farà per la prima volta un tragitto blues da Miradolo. Bellissimo. E suoniamo praticamente come artisti da strada, solo da artisti in barca praticamente, ecco. E la serata si concluderà con una cena di pesce, probabilmente qualcuno là sicuramente cadrà in acqua. E infine il 2 di agosto chiudiamo la kermesse ad Olo, allo Squero, è la festa dell'Isola Bassa. Adoro un altro paese che ci sta supportando, un paese che ci sta molto a cuore per molti motivi, e chiudiamo là questa l'inizio di questa avventura, insomma. Dimmi. Beh, diciamo che Dolo ci ha aiutato molto anche grazie all'associazione Isola Bassa, a Antonio Pra, che è un assessore bluesman. E insomma, vediamo di 2 agosto, insomma, di celebrare questo avvenimento importante per noi, sicuramente molto importante per noi. Ecco. Quindi ha dato l'impulso del progetto vostro, insomma, l'assessore, grazie. Sì, ha capito forse più di tanti altri. Forse più di tanti altri, insomma. Ecco. Benissimo, una cosa meravigliosa. Ok, adesso sentiamo il pezzo cantato da Miss Mary, che non abbiamo sentito. Somebody. On air tonight. Numero 8. Eccola, ce l'ha, c'è il disco. È dentro il disco. Is it reality? Yeah, reality, tutto dal vivo, tutto dal vivo. No, possiamo chiedere un momento a Miss Mary che cosa sentiva quando ha cantato questo pezzo. What about to sing that song? Bob, Serve Somebody? Yes. I just love the song. I thought it was a great song, and I like Bob Dylan. So I started to, we just used to play it a lot, and a lot of people enjoyed it so much that we taped it live. That was from the live version of when we played in Albany in New York, and then we put it on the CD because everybody wanted to hear it, so they... È una canzone che ha una storia live per Miss Mary e Professor Louis, perché usavano farla proprio dal vivo. Abitualmente la gente l'apprezzava tantissimo, e così a un certo punto hanno deciso di mettere una versione appunto live della canzone registrata ad Albany, New York, e che è questa del disco. Certo. Volevo ricordare comunque, Maurizio, che, che loro, praticamente il loro gruppo di supporto, che si chiama Chromatics, c'è Gary Bourke, la batteria, che era il batterista di Bob Dylan durante la Rolling Thunder Review del 76, si vede anche nel DVD di Hard Rain. Gary Bourke, the drums. Yeah. Okay. A one, two, three. You may be ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight, a champion of the world, or you may be a socialite with a long string of pearls, but you got to serve somebody. You got to serve somebody. Some high degree thief. They may call you doctor. They may call you chief. You got to serve somebody. You got to serve somebody. I say it may be the devil. It may be the law. You got to serve somebody. Hey, listen. You may be a state trooper. You may be a young Turk. You may be the head of some big old TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country. Another name. You got to serve somebody. Serve somebody. You got to serve somebody. Yeah, you may be a construction worker, working on a home, or you may live in a mansion, you may live in a dome. You may own guns, you may even own a tank. You may be somebody's mistress, you may even own the bank, but you got to serve somebody. To wear silk, you may like to drink whiskey, or you may like to drink milk, or you may like caviar, or maybe a little bread. You may be sleeping on a floor or on a king size bed. You got to serve somebody, serve somebody, serve somebody, serve somebody. The devil. Somebody, baby, yeah. You can call me Miss Marie. You can call him Professor Louis. You can call him Frankie C. Or you can call him Gary. You can call him Josh C. Or Larry Packer any day. Or Bones Malone and the ROAs. Anything you say, we got to serve somebody. Serve somebody. Serve somebody. Somebody, serve somebody. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito il pezzo di Miss Mary. Stanno provando una cosa meravigliosa. Abbiamo deciso di farla. Una cosa bellissima. È tutto in diretta. Stanno provando. Stanno provando gli accordi. It sounds good. It sounds really good. Ecco, stanno provando. Michele, così si fa. I musicisti di un certo livello provano gli accordi in diretta. C'è poco da fare. 22:38. Anche Miss Ru, lui. Miss lui anche pardon il professor, diciamo che Maurizio si ubriaca solo con l'alito nostro, esatto, quello esatto, mi ubriaco con l'alito esattamente Perché alla fine sei quello che viene fuori più de sfana le stesse, quando abbiamo messo l'arte qua. Okay, abbiamo deciso fra tutti quanti di suonare un pezzo meraviglioso di un musicista straordinario che era Tom Van Zandt, Punch Your Left, un pezzo incredibile, Andrea, suonato da tanti altri. Andrea, è uno dei dischi, dei pezzi di Tom Van Zandt più famosi, interpretati da un sacco di artisti. Stasera lo interpretano i musicisti qui a Rockway e in esclusiva per noi, 23:39, quasi 40. Siete pronti? Ok? Yeah, sure. Okay. But a little. Living on the road, my friend, was gonna keep us young and clean. Now your skin is like iron, your breath's as hot as kerosene. You weren't your mama's only boy, but a favorite it seems. And you broke her heart that day and left, sunk into your dreams. Lefty, he can sing the blues all night long like he used to. Does that Pancho bit down south ended up in poor Lefty's mouth? And when Lancho low, Lefty split for Ohio, where he got the bread to go, nobody knows. Kindness, I suppose. Poets tell how Pancho fell, left his living in a cheap hotel from Cleveland's cold. So the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He only did what he had to do. Now he's growing old. Oh, the better rally say, could have had him any day. Only let him go so long out of kindness, I suppose. Oh, the better Ali said, could have had him any day. Only let him go so long, had a kindness, I suppose. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, bellissima versione, un pezzo meraviglioso. Io ricordo una versione di Emily Harris di questo pezzo, meraviglioso, un disco. Io, e poi un altro disco che ho amato moltissimo di Toons Van Zandt era Flying Shoes, ma che è stato, sono stati ristampati tutti i dischi recentemente di Toons Van Zandt, musicista bravissimo, straordinario. Adesso parliamo un po' di te e del disco tuo e il tuo CD praticamente. Body or CD, Julian? Oh, okay. I keep hearing the word disco, and there's no disco on my CD, but it's actually from an album. My group is also a little bit like this evening. It's called The Green Mist, and it's a convergence of some fantastic musicians from Milwaukee, the Violent Femmes, a wonderful Australian guitarist Charlie Owen on the dobro. Charlie Owen plays with Paul Kelly, with the Beasts of Bourbon, even the Divinals, who are probably known here in Europe. And we make epic music inspired by living in Tasmania. Mm. And diciamo che è un crocevia di artisti internazionali, come in questo caso, diciamo. E ci sono artisti da Milwaukee, ci sono artisti dei Violent Femmes, Brian Ritchie. Yeah, and of course in Australia, Spencer P. Jones, wonderful Spencer songwriter, guitar player. The drummer? Ah, I forget who the drummer is. I think membri it's the guy in a box. The Vinyls. The Beast of Bourbon. And of course, Charlie Owen on the dobro. Charlie Owen alla chitarra dobro. Rosie Westbrook on the contrabass, who works a lot with Mick Harvey from the Nick Cave and the Bad Seeds. It's a community, and I'm lucky to have wonderful musicians like tonight, actually, that come together and we can try some of our ideas. Ok, allora sentiamo il pezzo, il primo pezzo dall'album di Julian Poulson. Title pezzo? It's called these songs are from two albums. One is called the band's called The Green Mist, and the album is called Next Stop Antarctica. Ok. And the fires begins to freeze, to freeze, and I fall. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sono le 23:52. Abbiamo deciso praticamente di fare un finale tutto dal vivo, però ricordiamo dove possiamo trovare i dischi del professor Lui. Ok? Ok. Website. Ok, you can find this at www.woodstockrecords.com or www.professorlouis.com, and thank you so much for having us on the radio tonight. Okay, ricordo io. Allora dicevo www.woodstockrecord.com and professorlouis.com. www.professorlouis.com voi potete trovare i dischi di Professor Lui e Miss Mary di Chromatics, ma anche di Kevin Doherty, yes, di Garth Hudson, di Rick Danko e Livon Helm, and the Chromatics Souvenir 1, 2. Ok, very well. Vi consiglio di andare a comprare. Dimmi. Vorrei che andassimo avanti col programma. Sì. Vabbè, abbiamo fatto una giusta pubblicità ai dischi di A un certo punto è una questione. Sì. Che c'è anche sì, dove possiamo trovare i dischi tuoi? Sì. The web address for find your CD, Giulia, or your information. Probably myspace.com, the mysterious green mist for the music that we've just heard. Or I don't know, Google Julian Paulson, find me on a street corner somewhere. Julian, and now And now, presenting, ladies and gentlemen, from all the way from the laboratory of Pasquale Productions, the first song off the soundtrack Mosquito. It is called No Meaner Man, featuring the baritone of Big Max Magro and from the Beards. This is how we do it, ladies and gentlemen, cooking them live in the studio. An original song just made here, right here and now. It's called... No, me. Uno, due, tre, quattro. Home at the age of ten, couldn't sail the seas. I was press gang for the ship of the Royal Navy. I climbed the mast, I swamped the decks, I worked as a powder the monkey. And I loaded every cannon with a message for Napoleon. I have served the king, and I won't be a slave to no meaner. Ship went down by the coast of Spain. I could not land the sea. Swam ashore and I met a bella senorita. But I had to run when the Frenchman came. When the Frenchman came, I ran. Well, I have served the king, and I won't be a slave to no meaner man. No meaner man. No meaner. Myself a gun, and I headed out the highway. So this is my message to your governor. It's written down in blood. So this is my message to your governor. I hope you understand. One more. I have served the king. And I won't be a slave to no meaner man, no meaner man, no meaner man, no meaner man, no meaner man, no meaner man, no no no no no no. Oh. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Okay. Julia, am I wrong if I say that to describe the song is a Santi Dio song? I think it's a Santi Dio mixy Sacramento. Okay. Ok, abbiamo sentito un pezzo assolutamente inedito, fa parte del disco che Bird hanno fatto assieme a Julia Paulsen, vero? Yeah, sì, okay. Sì. Grazie. Quindi deve ancora uscire, è un disco assolutamente inedito. Dimmi. No, dimmi. No, vabbè. La cavalcata è finita, però io ho un'idea, con Michele abbiamo un'idea. Salutiamo i nostri ascoltatori, prima parliamo, poi salutiamo con due pezzi dal vivo, uno dietro l'altro. Ok. Grazie al professor Louis. Grazie, thank you so much. Grazie a Miss Mary. Grazie. Grazie a Julia. A real pleasure, thank you. E grazie a Bert che li hanno accompagnati. Sono stati molto onorati. Yeah, grazie. Grazie. Il nostro piccolo grazie a al mitico Michele in regia, yeah. Bravo, grazie Morris. E grazie alla grappa che è presente ancora. Guarda, viene fuori una bottiglietta elegante. Ok, con cosa concludiamo questi ultimi due pezzi che concludiamo la serata bellissima last a Rockway. Last two song. Continued. Ok, you want to do one band song? We haven't done an old time band song. Yeah. E in B flat. Bows on the window, mail by the door. Why would anybody leave so quickly for Ophelia? Come on, Ophelia. Please come back home. Your neighborhood just ain't the same. Nobody down there knows whatever became of Ophelia. Come on, Ophelia. Please come back home. Was it something that somebody said? Ooh, honey, you know we broke the rules. Was somebody up against the law? Honey, you know that I love for you. Ashes of laughter, while the coast is clear. Why do the bad things always disappear? Like Ophelia, come on, Ophelia. Please darken my door. Come on, Emmanuel. Darken that door now. Was it something that somebody said? Ooh, honey, you know we broke the rules. Was somebody up against the law? Honey, you know that I'd die for you. Hey, got your number. You're scared and running. I'm still waiting for that second coming of Ophelia. Come on, Ophelia. Please come back home. Come on back home now. Another song? Yeah. Hey, next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things won't be the same. And if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Like a choo-choo said, all that shines are gold. Like a choo-choo said, all that shines are gold. Like a good book says, you got to reap everything you sow. Well, you lied, you cheated, uh-oh, for so long. Well, you lied, you cheated, uh-oh, for so long. Well, you're the wrong done woman, another queen is on your throne. Next time you see me, things won't be the same. Next time you see me, things won't be the same. If it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Come on, Julian. Go to Chicago, in the bus, come on. Baby, don't you wanna go? I got a sweet old Chicago. Why the man, you want a little party? Come on, man. Diamond, it could be a spoon for gold. Why a little spoon, your pleasure, love, satisfy my soul. Come on, baby, don't you wanna go back to my sweet old home, sweet home Chicago. Next time you see me, oh, baby, things won't be the same. Oh, baby, how come they won't be the same? No, next time you see me, oh, baby, things won't be the same. Oh, baby, and if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Oh, and if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. And if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Thank you. From same video location. Oh, the strap broke. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock.